canzoni per la strada. A 16 anni il mio cassetto era un giardino, capelli lunghi, una chitarra in mano, il mio destino, rincorrendo note che mi